Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E fate attenzione che questa è una puntata molto speciale di Non ci sono più le mezze stagioni, non è nella nostra, diciamo, formula classica, che è quella che tanto amate, le notizie della settimana, ma quelle che ogni tanto vi riservo qua e là su alcuni argomenti in particolare. Quindi una puntata monografica, una puntata tutta su un tema particolare molto complesso, con diversi ospiti che poi come al solito potrete risentire sulla pagina Facebook della trasmissione, sul sito di Radio 24. Ma vogliamo cominciare a introdurre, senza por tempo in mezzo, l'argomento? Cos'è questa sensazione? È come un treno che mi passa dentro senza stazione. È il mio corpo che cambia nella forma e nel colore. È in trasformazione. È una strana sensazione, in un bagno di sudore, è il mio corpo che cambia, e cambia, e cambia, e cambia. Sì, è proprio il corpo, l'argomento assai complesso di questa puntata, non so neanche perché mi ci sono cacciata, è veramente molto complesso, una realtà dalle molteplici valenze, infinite implicazioni, è il nostro, la nostra abitazione praticamente, e non solo, no? Quante valenze concrete e simboliche ha, e spazia su qualsiasi disciplina, dalla bioetica, all'arte, alla religione, alla psicologia, la filosofia, l'antropologia, la sociologia, chi più ne ha più ne mette. Insomma, cercheremo di addentrarci dentro il percorso appunto piuttosto articolato che un tema del genere richiede, naturalmente in questa ora neanche intera che abbiamo, cioè al netto poco meno, ma cerchiamo adesso di capire quali possono essere almeno alcuni dei punti di vista con, signore e signori, Elisabetta Fernandez, sociologa e sessuologa. Ciao Elisabetta. Un ciao a tutti. Elisabetta, che appena ha pubblicato di recente Appassionatamente Corpo di Gabrielli Editore. E poi c'è Rossana Beccarelli. Rossana? Ci sono, benvenuta. Salve, ciao. Medico antropologo, o come preferisco dire io, medica antropologa, ha scritto Il Corpo, è di pochi anni fa, Il Laboratorio della Nostra Trasformazione, un libro molto interessante anche questo, che appunto spazia in vari ambiti per quello che dicevamo, la complessità appunto di un argomento come questo. E poi abbiamo Fausto Manara. Fausto! Eccomi. Eccolo qua, psichiatra, docente all'Università di Brescia, e abbiamo Giorgio Calabrese. Ciao Giorgio! Ciao. Notissimo nutrizionista, nonché membro dell'Autorità Europea della Sicurezza Alimentare, unico rappresentante italiano, di cui naturalmente ci vantiamo. E siccome Giorgio Calabrese, anche lui è presissimo e tra poco deve andare a registrare una trasmissione, lo stanno truccando, trucco e parrucco, non so, i baffi te li hanno lisciati? Non ancora. Allora iniziamo da te, Giorgio, perché dicevamo, l'argomento è molto complesso, ma stando per esempio sulla percezione che abbiamo del nostro corpo negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, anche da un punto di vista dell'alimentazione, perché l'alimentazione quanto può condizionare e cambiare il nostro corpo nell'aspetto, nella salute, no? Tu lo sai bene, Giorgio? Sì, direi di sì, e direi anche un'altra cosa, che prima si pensava al corpo e alla ginnastica e l'alimentazione riempiva lo stomaco. C'è stato uno snodo che ci ha portati ad avere esattamente l'opposto. La ginnastica è faticosa, io sono più intellettuale, mi muovo poco, penso molto, però ho capito che devo mettere a posto il mio corpo con l'alimentazione. Questa è una cosa molto positiva, soltanto che c'è stato un meccanismo, dopo gli anni 60, il mito della steak and call, la bistecca e le bevande tipo cola, che ci davano l'idea di essere potenti e nel contempo mettere tante proteine. Però forse più America questa, no? Più brava, Stati Uniti. Ecco. Brava, però tu si guardavamo all'America dicendo è il sogno, però è anche il sogno dei grassoni. E in effetti è stato così. Poi c'è stato ancora un altro momento in cui finalmente è ritornato il concetto della dieta del contorno, quindi della dieta mediterranea, che ha preso molto piede. Allora abbiamo incominciato a tracciare questo percorso della dieta mediterranea come un meccanismo che dava problemi di positività al nostro organismo. Perché? Perché mangio più fibra, mangio più verdura, mangio più frutta, di stagione, come dice la Coldiretti, a chilometro zero a filiera corta, e poi ci metto insieme la pasta, e poi ci metto insieme un po' di carne, e poi ci metto insieme qualche dolce. Ecco, a un certo punto ci siamo resi conto che gli zuccheri erano i nostri nemici, e invece i grassi non li consideravamo. E questa cosa qua ha ricreato un'altra visione del corpo inteso come che ingrassa solo perché mangia gli zuccheri, ma se mangia i grassi va tutto bene, se mangia tante proteine, vedi la carne o quant'altro che possono portare dei grassi, va tutto bene. Siamo arrivati alla dieta iperproteica americana, in cui molta gente mangia soltanto proteine, non mangia più i carboidrati, sta male, però vive più a lungo perché c'è la classe medica che è più brava e i farmaci che sono più efficaci per farti vivere più a lungo. Quindi si è fatto un po' un escurso saputo su come sono cambiate anche le diete, il concetto di alimentazione, però possiamo dire che c'è forse rispetto agli anni passati una maggiore consapevolezza di quanto dell'incidenza che la nutrizione può avere, no, sul nostro corpo, però c'è ancora confusione con tutte queste diete che saltano fuori ogni poco, libri che diventano bestseller, no Giorgio? Ma guarda Roberta, io sono veramente molto preoccupato perché ad esempio in questi giorni, se avete letto, c'è stata una diatriba a livello del Ministero della Salute francese, dove si è visto che la dieta Dukan, con cui ho avuto tempo fa un dibattito a 1 mattina, e dove lui alla fine sorrideva perché diceva: ma io scrivo dei libri, la gente faccia quello che vuole, purché compri il mio libro, poi se lo segue vedrai che funziona, se non funziona va bene lo stesso. Che va molto di moda, sì, adesso. Ecco, dieta Dukan. Ebbene, ecco, in questi giorni il Ministero cioè l'Ordine dei Medici francese assieme al Ministero della Salute hanno proposto la radiazione dall'Ordine dei Medici di questo collega. Addirittura? Perché, sì, e questa è una notizia di qualche giorno fa, se voi vedete su internet la troverete e vedrete che c'è veramente un problema. Qual è il problema? Intanto lui ha fatto un discorso molto filosofico dicendo: se voi utilizzate sempre la mia dieta, siccome è una dieta gravemente iperproteica nella prima fase e abbastanza iperproteica nella seconda e terza fase, vedrete che voi perderete i chili e non li riprendete più. Bugia. Non esiste nessun dietologo, come per primo, che possa dire a un paziente: tu mangia così e poi fatta la mia dieta non riprenderà più i chili. Bisogna fare la dieta e farle educare. Allora invece lui cosa fa? Parte diretto, ma non è solo lui, tutte le diete iperproteiche come la dieta zona, come tutte le diete che hanno questo problema, partono dal concetto di fare diventare acetonemici i pazienti. Ti ricordi i bambini quando sono piccoli? Che hanno un po' l'acetone. Bravo, cosa facevi? Chiamava il pediatra che gli faceva la punturina perché aveva il vomito, la diarrea e la febbre. Invece no, ora lo provochiamo noi spesso. Questo mi fa preoccupare. Perché? Perché è chiaro che tu dimagrisci, ma dimagrisci, uno, stando male, secondo, per riprendere i chili con interesse da usurai. Giorgio, allora ti dico, in questi poco tempo che hai ancora, dacci proprio 2-3 indicazioni che ognuno deve seguire per avere un corpo in forma. Assolutamente. Sì. Allora, intanto facciamo 5 volte e non 3 volte al giorno, 5 piccole parti. Perché noi produciamo l'insulina che in genere brucia gli zuccheri, e quando l'insulina è troppo secreta e non ha il compenso dei pasti, quante volte facciamo una colazione di un caffè e poi ce ne andiamo alla sera a cena, abbiamo dei problemi obiettivi, perché l'insulina viene secreta lo stesso, produce i grassi anche senza mangiare. Quindi colazione, si chiama il cappuccino, il latte, lo deve bere magari parzialmente scremato, ma latte con un po' di cacao o di caffè, si mette delle fette biscottate con miele o marmellata o uno yogurt o frutta. Se ogni tanto vuole alternare, può anche utilizzare quella buona crema di nocciola che ogni tanto si può? Sei sicuro? Autorizzi? Sì, te lo dico perché. Perché nella mattinata tu hai bisogno di più zuccheri, hai bisogno di più forza morale. Di energia. Di un filo, non sto mica parlando di chili. Però ti dà la gioia di fare questo. Un po' di gratificazione. Oppure ti fuori pasto ai cereali che abbiano tanta fibra. Nella mattinata della frutta, a pranzo si mangia un monopiatto, tipo in cui ci siano le verdure con il primo piatto, riso, pasta che sia, si mette poi della buona frutta e volendo un po' di pane, dopodiché si arriva nel pomeriggio, nuovamente facciamo un discorso, ora che arriva l'estate si può mettere anche un gelato, altrimenti yogurt o frutta o un po' di fuoripasta ai cereali, e la sera mangiamo una accoppiata alternata di secondo con legumi o con verdure, in modo tale che mangiando una volta carne rossa, una volta carne bianca, una volta pesce, una volta formaggio, una volta uovo, una volta prosciutto, ogni giorno cambiamo il menù e alla fine vi ritroverete con dei chili in meno, con tanto della salute. Giorgio, per chiudere, non ci deve essere però, diciamo, questa ossessione della magrezza, no? Si sta bene, basta che si abbia un corpo equilibrato, armonico. La magrezza è come l'obesità. Non è un fatto fisiologico, è lo stare in forma che è fisiologico, per cui se sono troppo magra o sono troppo grasso sono ammalato in ambedue i casi. Io devo compensare, nel magro devo tornare in forma aumentando, nel grasso devo tornare in forma diminuendo. Però c'è poi un point in particolare che è quello che ti dà, che non è un chilo, sono quei 3-4 chili che ci permettono di stare molto meglio. Se sei in inverno sei un pochino più appesantito, se sei in estate sei meno appesantito, però non uscire dal range che è l'indice di massa corporea, che ti permette di arrivare assolutamente tra i 18 e i 25, che è una matematica molto facile, che è il peso diviso 2 volte l'altezza, e in base a questo se arrivi tra 18 e 25 tu dici sono magro, ma soprattutto senti di stare molto bene. Grazie Giorgio Calabrese, grazie. In questo tempo concentrato, tante indicazioni. Giorgio, buona continuazione a te. Giorgio Calabrese, altissimo nutrizionista e membro dell'Autorità Europea della Sicurezza Alimentare. Quindi anche gli altri ospiti nel contempo hanno avuto qualche indicazione, se mai interessasse, se mai volessero seguire la corretta alimentazione. Il corpo ovviamente non è solo questo, è un modo di iniziare a introdurre l'argomento, a capire come intanto ci possiamo piacere, perché il corpo rispetto al passato, rispetto a certe culture, ci deve dare ovviamente piacere, dobbiamo essere contenti di abitare questo corpo e di essere questo corpo. Allora, facciamo una piccolissima pausa e poi riprendiamo a parlare di questo argomento con Elisabetta Fernandez, Rossana Beccarelli e con Fausto Manara. Tra pochissimo c'è la viabilità, Pietro La Corte mi confermi, andiamo. Corpo e voce, cuffie, in questa puntata speciale monografica sul corpo, sulle sue infinite implicazioni, su anche come è cambiata la nostra percezione del corpo negli ultimi decenni, almeno diciamo nei paesi occidentali e anche per quanto riguarda in particolare l'Italia. Quindi cominciamo a chiedere a Elisabetta Fernandez, a Rossana Beccarelli, a Fausto Manara. Per esempio, ho tra le mani il libro di Elisabetta Fernandez, Appassionatamente Corpo, un libro veramente dove tu fai una traversata storica e anche interdisciplinare molto molto ricca, cara Elisabetta. Il corpo, realtà contraddittoria e affascinante, rappresenta il fil rouge che collega temi di grande attualità quali tecnologia, bioetica, chirurgia estetica, naturalmente transessualismo, fisiognomica, pubblicità, moda, body art, fino a quell'erotismo che è magia, fascinazione, seduzione, eccetera. Da dove possiamo cominciare, Elisabetta? Intanto, se tu dovessi dare una definizione del corpo, prima ne abbiamo parlato così in un modo modo un po' più, come si può dire, popolare, fisico, concreto, e non solo. Comunque l'alimentazione ovviamente non è soltanto materialità, ha qualcosa di spirituale. Ma qual è la tua definizione, Elisabetta? Prima di tutto direi che il corpo non è soltanto un involucro biologico della persona, ma è un indicatore di strutture e dinamiche sociali. E poi aprirei un ampio discorso sul corpo, perché come hai detto tu, taglia trasversalmente discipline diverse e discorsi complessi, e per nel mio libro il corpo è stato lo spunto, il pretesto per poter parlare di questa nostra società. Questa società che propone, impone modelli dai quali prendere distanze non è facile, questa società in cui il corpo praticamente si rivela un, come detto tu, la residenza è la residenza del soggetto, è l'esito di un continuo processo teso a trasformare un'entità naturale in un'entità sociale. Il corpo è il frutto delle continue interazioni con l'ambiente, quindi pongo l'enfasi sul contesto, non è sicuro sicuramente riconducibile soltanto al discorso organico, è un qualche cosa che può trasformarsi anche in un limite per l'individuo nel momento in cui incarnasse una dissonanza fra l'essere e l'apparire. Noi sappiamo che il corpo in primis è vissuto ed interpretato in riferimento ad un termine sade quem che si fonda su una polarità sessuale dicotomica, che assume dei connotati culturali che rispecchiano il periodo storico, l'ambiente, il contesto situazionale e è l'espressione quindi di diverse realtà. In tal senso il corpo si trasforma in un terreno di scontro fra quelle che possono essere le aspirazioni individuali, certo, e le convenienze sociali, fra i dettami religiosi e quelle che sono le concezioni del mondo secolari, quindi tra l'essere e il dover essere. Quindi vediamo quante implicazioni sul corpo, che è un territorio sul quale agire e un territorio sul quale la società agisce, perché è portatore di essenza e di apparenza. Si incontra e si scontra con l'alterità, si esprime attraverso un linguaggio, anche questo va contestualizzato perché deve essere culturalmente condiviso, ed è condiviso attraverso un processo di socializzazione. Il corpo quindi è un elemento comunicativo, comunica anche quando tace, basti considerare il linguaggio del corpo. Circa fra il 70 e l'80% dell'informazione che arriva alla corteccia cerebrale arriva dagli occhi, soltanto fra il 10 e il 15% arrivano segnali all'udito, quindi le manifestazioni esteriori sono quelle che giocano un ruolo fondamentale nell'incontro face to face, si è prima visti e poi ascoltati, e di qui si apre tutto un ampio dibattito che va a intrattenersi sul discorso della bellezza, come viene concepita attraverso gli anni, attraverso i secoli. Poi ce lo spieghi, Elisabetta Fernandez, il concetto di bellezza e come cambia anche attraverso le culture, i tempi. Invece da Rossana Beccarelli, che appunto è antropologa, Rossana, ci vuoi dare un riassunto di come negli ultimi decenni, anche attraverso l'antropologia, no, la percezione del corpo è cambiato, il modo di interpretarlo? L'antropologia ci mette davanti alla possibilità di capire il corpo nella lunghezza della storia, quella che si chiama diacronia, e nella contemporaneità delle culture, che si chiama sincronia. Quindi si possono avere effettivamente delle immagini di corpo così diverse. Intanto pensare che non esista il corpo, che già trovo che è un concetto molto interessante. Quindi immaginare che noi possiamo trascendere questi limiti, perché effettivamente noi siamo legati a questa immagine materiale soltanto grazie alle parole che usiamo. Se già ci immergiamo in un'altra cultura e capiamo che altre lingue esprimono altri concetti, possiamo capire che il limite del corpo, che a noi sembra assolutamente impossibile da varcare, cioè ci sembra che l'identità nostra coincida col corpo, questo non è vero. E quindi si possono avere per esempio esperienze illuminanti di come un individuo trascorra al di là del suo corpo e viva con l'universo, con gli altri, in una comunità molto più concreta di quanto a noi appaia. In che senso, per esempio, Rossana? Ma per esempio c'è un grandissimo studio, secondo me veramente uno studio da cui si possono comprendere come gli altri abitano il mondo e quindi come gli altri abitano o disabitano il proprio corpo, che si chiama Benjamin Whorf. Lui era un antropologo americano degli anni 40 e lui comincia veramente a capire attraverso il linguaggio degli indiani Hopi d'America che si può immaginare il nostro rapporto con la realtà in una maniera totalmente diversa, che non ci sono limiti, non ci sono confini, la pelle non è l'unico confine, l'unica frontiera fra noi e il mondo, ma che tu puoi concepire una relazione stretta con gli altri, con la tessitura della realtà e della comunità che proprio riguarda il linguaggio. Però, però questo, Rossana, fa vedere il corpo, interpretarlo come un limite, quindi non come la nostra ricchezza, no? No, non c'è un po' anche questa No, naturalmente è chiaro, non è possibile mai, beh, intanto non si capiscono mai benissimo gli altri e neanche le altre lingue, noi possiamo soltanto avvicinarci per approcci, diciamo così, concettuali, ma non è la stessa cosa che viverlo una lingua, naturalmente, quindi noi siamo indissolubilmente legati alla nostra lingua e quindi al nostro corpo, la nostra è una lingua di pieni, una lingua di materia, una lingua di cose concrete, quindi noi per esempio non siamo in grado di concepire ciò che altre culture in questo stesso momento concepiscono, cioè che il corpo è anche una entità vuota, un'entità di energia, e questa energia effettivamente è un'antenna ricettiva, come se fossimo una radio e ci possiamo collegare fra noi e gli altri, fra cielo e terra, mettere in contatto le nostre polarità energetiche come se fossimo proprio delle pile, come ai tempi di Alessandro Volta, e questo è molto, io trovo che è molto affascinante, attraente. Sicuramente sì. Affascinante. Invece Fausto Manara, da un punto di vista psicologico, tu che sei psichiatra, diciamo docente all'Università di Brescia, quando qualcuno viene da te, no, e esprime i propri disagi, il corpo che cosa manifesta? È sempre magari protagonista, forse inconsapevole del proprio disagio? Dal tuo punto di vista che cosa diresti in merito al rapporto con il corpo? Il corpo non è sempre com'è, nel senso che ci sono persone che viste hanno un corpo assolutamente proponibile e che si sentono invece in un involucro nel quale stanno male. Che spesso le donne sono queste, o no? Sì, le donne soprattutto, ma non soltanto, adesso cominciano anche gli uomini a sentirsi così, in un ambito patologico ci sono quelli che soffrono della cosiddetta anoressia al contrario, che sono quelli che vanno in palestra per muscolarsi, non si bastano mai. Mangiano pochissimo, sono sempre siano muscolati, mangiano soltanto quello che serve a rassodare il muscolo e quindi hanno problemi alimentari, hanno problemi nei rapporti col corpo. È vero, riguarda sempre più spesso anche gli uomini, anche se le donne sono sempre in maggioranza. Perché il corpo, dal mio punto di vista, è un po' il mio corpo è come mi sento, è come sento la mia possibilità di propormi al mondo. Il corpo è quello che mi rappresenta e quando io mi sento improponibile o comunque sento di avere una difettosità, di non essere in una condizione per la quale sarò accolto, il corpo diventa un tramite assolutamente inadatto comunque sia. Quindi il corpo trasmette il mio valore e se non sento valore in me il corpo non andrà mai bene. È un elemento che affligge un sacco di giovani oggi soprattutto. L'inadeguatezza, no? Questa paura di essere inadeguati, anche se bisogna dire, Fausto, abbiamo esperienza tutti, no? Di persone che magari non hanno un aspetto, quindi un fisico, un corpo estremamente attraente, ma riescono con una personalità particolare a fartelo, uso le virgolette perché tutto è relativo, a fartelo sembrare bello rispetto magari ad altre persone oggettivamente più belle, che però hanno un tipo di personalità un po' più rinchiusa, un po' più defilata, un po' più insicura, che sembrano meno belle. È anche così, assolutamente, no? Sì, il biglietto da visita è quello che è chi sono io e non chi il mio corpo propone, quindi il corpo può diventare qualcosa di assolutamente accessorio nel proporsi e può in molti casi superare tutta una serie di stereotipi, di regole che sembrano obbligatorie, che invece possono essere vissute in termini assolutamente generici e non invasivi. Ecco. Però Fausto, si può, per esempio un giovane, una giovane che viene da te non riesce a ritrovarsi col proprio corpo, in genere è una cosa che si può superare questa con l'aiuto appunto della psicologia o della psichiatria? Ci sono persone che rimangono intrappolate un po' in questa loro visione magari mistificata, deformata del loro corpo? Sì, sì, ma non è certo una condanna, certamente occorre che ci sia una rivoluzione copernicana nel modo prima di tutto di vedere se stessi in rapporto al mondo, anche perché quello che diceva all'inizio Giorgio Calabrese, sì, che è assolutamente da spendere, da consigliare a tutti, i 5 pasti fatti in un certo modo, sono assolutamente adeguati per tutti, con salvo che l'obiettivo di seguire questa regola alimentare sia un obiettivo in cui l'idea di andare verso una diversa qualità della vita sia in primo piano. Il problema è quello, di una motivazione, certo, forte, di voler rivoluzionare il rapporto con se stessi, il rapporto col mondo, e soprattutto di voler rivoluzionare la propria idea di ruolo nel mondo. Nel mondo. Ci fermiamo su questa riflessione, ci fermiamo per qualche istante, riflettiamo su queste cose che abbiamo detto sul corpo e poi riprendiamo il discorso tra poco. Sto viaggiando senza biglietto e non ho direzione. È lei, che prende la mia mano e mi accompagna in questo lungo viaggio, andiamo lontano. Ecco cos'è tutto il mio stupore. Non è facile guardare in faccia la trasformazione. È il mio corpo che cambia, nella forma e nel colore. È in trasformazione. È una strana sensazione, in un bagno di sudore. È il mio corpo che cambia, e cambia, e cambia, e cambia. Cos'è questa sensazione? È come un treno che mi passa dentro senza stazione. Tu dimmi qual è la mia direzione. Sto viaggiando senza biglietto né limitazioni. Trasformazione, è una strana sensazione, in un bagno di sudore, è il mio corpo che cambia, e cambia, e cambia, e cambia. Roberta Giordano con voi, stiamo insieme in questa puntata monografica speciale di Non ci sono più le mezze stagioni, dedicata al corpo, alle sue mille implicazioni, alle tante interpretazioni anche attraverso il tempo, attraverso la storia, le culture, naturalmente sinteticamente, visto che richiederebbe giorni e giorni di riflessione, di chiacchierata. Come è cambiata anche la percezione del nostro corpo negli ultimi anni, dicevamo, perlomeno nei paesi più sviluppati occidentali, no? Rispetto alla nostra, dentro la nostra cultura. Sempre qui presenti telefonicamente, dopo che abbiamo salutato Giorgio Calabrese, Elisabetta Fernandez, sociologa, sessuologa, che ha scritto appassionatamente Corpo, Rossana Beccarelli, medica antropologa, col suo libro Il corpo, il laboratorio della nostra trasformazione, come dice appunto la canzone, Fausto Manara, psichiatra, docente all'Università di Brescia. Elisabetta Fernandez, ci avevi lasciato prima parlando di bellezza, no? E noi, c'è effettivamente questo desiderio poi della trasformazione per molti del proprio corpo, che sembra una cosa più attinente al presente, parliamo di chirurgia estetica e di vari trattamenti, che poi è anche il fatto di voler comunque mantenersi sempre giovani dentro certi canoni estetici, che sembra una cosa di adesso, forse però no. Interpretata in modo diverso, vero, anche nelle tribù arcaiche, diciamo, questo mettersi questi piercing o questo mi vengono in mente, queste sono le donne Masai che mettono quelle specie di collane di cerchi al collo per allungarlo, o quelle che stirano molto il seno, che sembra una cosa appesa, che forse per i nostri canoni sembrerebbe bruttissima, invece cioè è una cosa che fa sempre fatto parte della storia umana, no? Questo bisogno di trasformare, di incidere sul proprio corpo. Il papiro di Smith del 1530 avanti Cristo è praticamente una testimonianza del fatto che già c'erano gli interventi di chirurgia estetica. Pensa un po'. Quindi la storia è molto lunga. Mi rifaccio un attimo al discorso dell'antropologa. Sì. Volevo dire che io tratto nel mio libro il corpo nella cultura occidentale, come tu avevi detto all'inizio. Certo. Quindi è chiaro che il modo di pensarlo, sentirlo, percepirlo è particolare, è legato al contesto. Infatti io pongo molto l'enfasi sul contesto, sull'importanza anche dell'area geografica nell'analisi di un fenomeno. Noi è innegabile che qui nell'Occidente industrializzato, in quello che io definisco l'Occidente dai labili confini, si viva un pochino nel tripudio dell'apparenza, ahimè, ai noi, forse, non so, però è innegabile che questo accada. Il corpo diventa un indicatore, diventa un biglietto da visita, non che questo sia da me condiviso, anzi. Io parto sempre da un presupposto che corpo e mente debbano essere in un'unità inscindibile, per cui il nostro corpo è il veicolo nel mondo, ma la nostra mente deve essere molto in equilibrio e dobbiamo riuscire a non essere troppo condizionati da certe imposizioni della società, da alcuni modelli che in realtà spesse volte sono anche irraggiungibili, per cui un ideale socialmente stabilito dovremmo stabilircelo da soli, forse sarebbe la soluzione migliore, anche perché la bellezza con il tempo può sfiorire, la bellezza che trascende le forme dell'effimero resta sempre. La bellezza è quella che resta e riesce a sfidare il tempo, non è sicuramente la ruga. Rincorrere la gioventù, rincorrere un modello di bellezza prestabilito peraltro da altri, per carità, è sicuramente la via più sbagliata. E poi, come diceva Bette Davis in suo noto film, una donna è bella soltanto quando è amata, e penso anche per un uomo sia la stessa cosa. Mi piace questo inno alla parità. Allora volevo chiedere a Rossana Beccarelli, anche l'interpretazione per esempio è così differente tra il femminile e il maschile, che è anche molto presente nel libro di Elisabetta Fernandez, e il diverso significato e anche l'utilizzo diverso, se pensiamo, restando appunto nella cultura occidentale in particolare, per esempio nella pubblicità, è abbastanza recente il famoso in Italia Il corpo delle donne, no? Questo libro che ha avuto molto successo, e poi il video. Come può essere rintracciata nel passato, anche se è difficile dirlo nel preciso momento, questa dicotomia, no, tra femminile e maschile, al di là degli organi genitali differenti? Questo è veramente il tratto dominante della società, e la differenza fra uomini e donne fonda anche la capacità creativa, cioè proprio essenziale della specie, quindi è evidente che non ci possano essere dubbi o non molti dubbi, ecco, anche se poi scopriamo, anche questa con grande veramente stupore, che ci sono società primitive in Africa che riconoscono sette sessi. Sette sessi addirittura? Sette sessi. E questo è già molto divertente, perché tu non sai neanche riconoscerli. Di nuovo, questo fa parte di una vicenda culturale che ci supera completamente. Non siamo in grado noi di capire i sette sessi di queste tribù, che poi tra l'altro sono anche immagino poco numerose, quindi insomma hanno anche questa caratteristica. Allora si può immaginare che non esista soltanto un uomo e una donna, esistono anche delle fasi transizionali, e chissà come riconoscibili, e chissà come, soprattutto, come diceva prima Fernandez, un dispositivo sociale così complesso come sette sessi, come si articola in un mosaico di relazioni, in un mosaico simbolico, molto interessante. È affascinantissima questa cosa, cioè di tribù che sono attuali, che esistono tuttora? Sì, attualmente, perché insomma nella questione, per esempio, se sia tollerabile e legittimo avere una coppia di uomini, una coppia di donne a pari grado con nella nostra società, si può rispondere. Argomento dibattutissimo, no? Guarda che la natura si riconosce conosce la natura lo sa. No, non è vero, la natura purtroppo è molto indietro rispetto a noi, nel senso che è con noi, ma noi l'abbiamo veramente trasformata, quindi l'evento culturale del corpo è fondamentale. Noi non sappiamo più neanche tanto bene noi sapere se la specie si riconosce nell'evento creativo che dicevo all'inizio, se invece si riconosce nell'evento culturale che veniva detto prima, insomma. È molto affascinante. Io trovo per esempio che un'altra cosa, che è un fenomeno interessantissimo adesso, è quella transizione di cui parlava prima anche Manara sulla vicenda di questi uomini che si assomigliano sempre più a delle donne, che si sottopongono a quelle torture che le donne una volta pativano proprio in virtù del loro essere donne. E però dicevi anche, vorrei essere un uomo, non caracollare su questi tacchi altissimi, non ti curare troppo, non è? Invece... E invece adesso io scopro che compagni di mia figlia al liceo si mettono il rimmel o si mettono il fondotinta e non sono particolarmente orientati, così, proprio come se uno stesso stile estetico in realtà ormai riguardasse tutti e due i sessi. Anche se, Rossana, possiamo ricordarci che viene in mente il Settecento francese, ma non solo, no? Abbiamo questo stereotipo di quell'immagine, si mettevano cipri a fondotinta, gli uomini si truccavano, i pirati si mettevano gli orecchini e non solo loro, no? Nel senso, dipende proprio dal periodo storico in realtà, no? Le cose che a volte noi sembrano strane, inconcepibili, in realtà in altri momenti storici ci sono state tranquillamente. Proprio così, oppure pensiamo agli eunuchi, alla fortuna che avevano queste voci bianche nei cori, per cui si scrivevano anche opere straordinarie, che poi sono transitati, non rispondono più ai nostri gusti, per esempio, e questo di nuovo è un fatto estremamente culturale. Fausto Manara, questa storia dell'identità sessuale, del fatto di essere appunto così chiusi o nel femminile o nel maschile, è una cosa che ti capita spesso nel tuo lavoro di dover affrontare? Ma ci sono alcuni livelli, perché vorrei partire con una cosa che scriveva Kundera nel libro del riso e dell'oblio, che diceva che un uomo è bello se è frequentato da donne belle. Purtroppo questo è qualcosa che riecheggia anche oggi. È vero, è vero. È prestigio avere una donna bella accanto, no? Per un uomo anche non bello. E dall'altra parte, avere una donna, essere una donna bella significa anche poter accedere a uomini che possono avere potere, ricchezza, eccetera, eccetera. E questo sicuramente è un elemento che nel rapporto con il corpo gioca certamente, tanto quanto certe pubblicità più o meno ingannevoli, gioca certamente un ruolo importante. Che i maschi oggi abbiano una maggior disponibilità verso strumenti, trucchi anche, proprio trucchi in senso esteso, che sono di pertinenza femminile, è un dato di fatto e risponde molto, per quello che vedo io nella mia esperienza professionale, risponde molto a una questione che risale ai tempi non tanto lontani, in cui il ruolo maschile via via ha perso il suo carattere dominante, individualista, di guerriero assolutamente imbattibile, e entra nel tessuto soprattutto dei giovani maschi oggi in un modo assolutamente distorto, nel senso che il potersi permettere oggi l'utilizzo di strumenti femminili non è il gioco della possibilità di trasformazione, così come è per la donna, e invece cercare di andare verso un sesso che ha vinto una battaglia cui l'uomo non ha partecipato. È un tentativo di partecipazione a qualcosa che non appartiene al maschio. Questo lo si vede soprattutto nei giovani. Che però riguarda una minoranza, no? Mi sembra di capire ancora, Fausto. Sì, riguarda una minoranza, però è una minoranza che esprime la maggioranza impaurita di molti giovani che faticano, per esempio, a vivere in intimità, che vivono delle grandi relazioni sociali o delle relazioni affettive molto transitorie, ma nel momento in cui devono esporsi all'intimità sono in difficoltà assolutamente marcate. Bene, abbiamo veramente dato moltissime cose finora, tante implicazioni, tanti aspetti. Adesso ci dedichiamo tra poco un altro blocco, altri minuti per parlare di questo argomento che abbiamo sottolineato sin dall'inizio, ve l'ho premesso, è estremamente complesso, quindi sono giusto degli spunti estremamente interessanti, almeno per quanto mi riguarda, che stanno fornendo gli ospiti. Ci fermiamo giusto per far decantare questi pensieri e anche per aggiornare chi sta viaggiando. Tra pochissimo. È questo l'inno del corpo sciolto. Lo può cantare solo chi canta di molto. Se vi stupite la reazione strana, perché cancare soprattutto è cosa umana. E naturalmente il corpo è anche questo, e non è soltanto sublimazione, ascetismo, è anche molta concretezza, è quello che ci permette di vivere e di stare in salute, diciamo, espletiamo certe funzioni fisiologiche naturalmente e diciamo quasi quotidianamente. Roberta Giordano sempre con voi in questi ultimi minuti che ci rimangono per parlare della percezione che abbiamo del corpo, come è cambiata negli ultimi anni e delle varie interpretazioni a seconda dei tempi, delle culture. Sempre con me Fausto Manara, Elisabetta Fernandez e Rossana Beccarelli. Per esempio, Rossana, anche questo dicevo è corpo, no? E magari in certe culture è vista come una cosa naturalissima e in altre come qualcosa di indecente, no? Quello che anche il corpo esprime da un punto di vista proprio prettamente fisiologico. Ecco, questa questione dell'indecenza credo che sia veramente un tema importantissimo, perché forse per riuscire a superare la nostra percezione di inadeguatezza ci vorrebbe più coraggio. Rispetto all'essere, all'apparire di cui si parlava prima, io credo veramente che quando siamo schiavi dell'apparire è perché effettivamente siamo paralizzati dalla paura, ed è questa in fondo la grande missione della nostra vita. Noi dovremmo riuscire a intercettare quella piccola scintilla di verità che anima il nostro essere. Forse saremmo decisamente più felici se riuscissimo a fare questo. Credo proprio di sì, credo proprio che sia una rivoluzione culturale che riguarda prima di tutto noi stessi, ognuno di noi, no? Nel nostro piccolo. Ecco, e questo devo dire che di nuovo dalle tradizioni orientali vengono delle indicazioni preziosissime per noi, perché noi effettivamente stiamo in questo corpo proprio come in una casa. C'è quella gente che la sera arriva a casa, cerca la chiave, non la trova, poi dice no, vado da un'altra parte a dormire, no? Poi purtroppo si ritrova sempre al stesso posto. Invece gli orientali usano il corpo per fare un processo trasformativo. Questa è una cosa che trovo veramente molto interessante, anche perché è concreta, cioè davvero mette insieme lo spirito e il corpo, e quindi in qualche modo riesce anche a fare la sintesi fra essere e apparire. Questo lo sanno fare loro meglio di noi. Noi siamo sempre o troppo nella superficie del corpo, decisamente sulla pelle, quello che dicevate prima, insomma, no? Come ci trucchiamo, come ci abbigliamo, oppure questi segni che adesso i giovani riscoprono che sono veramente segni tribali, i piercing, i tatuaggi, eccetera. Ebbene, noi possiamo immaginare invece che il nostro corpo lo rimanipoliamo, ma con tecniche che sono alla portata di tutti. Per esempio questa arte magica del respiro, come fanno gli orientali. Questa possibilità di lavorare col respiro e di fare una trasformazione che da un lato è biologica, perché di fatto gli studi dimostrano che i grandi meditanti che lavorano con il respiro hanno una struttura piccola piccola nel nostro cervello che si chiama amigdala, che però negli occidentali è più grossa ed è quella cosa che ci fa avere paura, giusto appunto per tornare al tema iniziale. Quindi quando si lavora sul respiro si può ridurre la dimensione di questo centro nervoso importantissimo, che quando è piccolo piccolo ci fa avere anche meno paura, e quindi meno paura anche di noi, meno paura dei nostri rapporti col mondo, diciamo più rilassati, più a nostro agio. Un po' più di coraggio, insomma. Elisabetta Fernandez, guardavo anche l'indice del tuo libro, e senza apparenza ne abbiamo già un po' parlato, l'anima dietro la maschera, tra edonismo e ascetismo, medium e messaggio, corpo e destino, il corpo offeso, se pensiamo. Ecco, il corpo offeso mi fa venire in mente la sessualità, l'erotismo, di cui ancora non abbiamo accennato moltissimo, e anche il corpo offeso delle donne che continuano in tutto il mondo, a milioni, a subire comunque mutilazioni genitali, eccetera. Per quanto riguarda la sessualità, l'erotismo, è anche quello occidentale, in parte, non completamente, un corpo liberato, potremmo dire, no? negli ultimi anni. Non so fino a che punto emancipazione sia realmente emancipazione, proprio per tutta una serie di modi che abbiamo di concettualizzare il corpo, la sessualità, la libertà, spesse volte si confonde emancipazione con permissivismo, però l'emancipazione è un inno alla libertà, prima di tutti rispetto per gli altri, non dimenticando di avere rispetto di se stessi. Quindi quando parliamo di processo di liberalizzazione siamo ancora in itinere, non siamo arrivati alla tappa finale. E quindi per quanto riguarda invece il discorso sul corpo, il modo di concettualizzarlo in Oriente, volevo dire una cosa, penso uno spunto interessante del quale sul libro ho parlato. Ci fu uno studio di Bakhtin sul Medioevo, un'epoca che noi erroneamente pensiamo possa essere stata un'epoca oscura, in cui la classe, non quella dominante, ma la classe popolare viveva il corpo proprio come in maniera completamente diversa dal modo di concettualizzare all'occidentale, dico così, lo vedeva come una struttura aperta, proprio le uscite del corpo erano in stretta connessione e contatto con il mondo circostante, quindi è proprio vero che delle volte il contesto è molto condizionante, anzi più che delle volte sempre è condizionante. Io parto da un assunto, non riconduco mai nulla al discorso organico, perché l'infiltrazione della genetica in ambito esistenziale è un elemento che contrasta con la mia ottica culturalista, che invece pone sempre l'accento su tutti quegli aspetti legati al processo di interazione, di socializzazione, certo, al contesto ambientale. E ritornando però poi al discorso, anche per concludere, sul fatto del modo, su come le due, i due sessi hanno modo di rapportarsi al corpo, chiaramente le differenze di ruolo sono riscontrabili già nei bambini, ma ribadisco, secondo me è un effetto culturale. Sono assolutamente d'accordo con te, ecco, Elisabetta. Cerchiamo di marciare verso un'uguaglianza dei sessi, che sia fondata sul rispetto della diversità, nella valorizzazione delle differenze, differenze di cui il corpo si fa testimone, ma non incarnando un destino ineluttabile. Bella, guarda, mi piace questa definizione. Fausto Manara, in questi due minuti che ci rimangono, ti volevo chiedere, che consiglio daresti, soprattutto ai più giovani, ma non solo, a diventare più forti nell'amare, nel rispettare, non dico accontentarsi, nell'amare appunto il proprio corpo, comunque sia? Ma più che amare direi nel rispettarlo, perché rispettare il proprio corpo significa rispettare se stessi, rispettare una parte di sé fondamentale, quella che ti esprime in qualche modo ma non ti esprime in tutto. E in questo senso io vorrei dedicare l'ultimo minuto alla purtroppo triste tendenza dell'inaccettazione del corpo che invecchia. Perché il corpo che invecchia è veramente entrato in una logica quasi di oscenità che non può essere, che non può essere accettata, e allora la chirurgia estetica diventa la regola, ci sono sforzi terribili perché il corpo non abbia meno rughe, e l'amigdala sicuramente molto più grande di quanto potrebbe essere. E soprattutto non potrà più essere, se andiamo avanti così, quello che Manzoni diceva così bene, lo faceva dire così bene alla madre di Cecilia, quando di lei diceva che scendeva dalla soglia di uno di quegli usci una donna che mostrava una bellezza passata ma non trascorsa. Purtroppo noi vedremo delle bellezze, se l'inaccettazione dell'invecchiamento del corpo andrà così, delle bellezze passate e tanto trascorse che non si capirà più neanche da dove sono partite. Pausa. Mi viene un dubbio, Elisabetta Fernandez, mentre ci stiamo lasciando, non è che, siccome avevo definito, e anche tu, definito il corpo la nostra residenza, prima o poi ci mettono l'IMU, non so, secondo te può succedere questa cosa? Vecchia ICI? Potranno mettercelo. Potrebbero mettercelo. Tu Rossana che dice? È un rischio. Dovremmo cercare di andare in un altro corpo in questo caso, possibilmente di quelli con l'IMU più basso. Un po' low cost, magari uno un po' low cost. Di far scendere un po' il valore catastrofico. Insomma, molti lo fanno scendere parecchio. Cerchiamo appunto di avere più rispetto e più coraggio, come hanno detto gli ospiti, nel vivere il nostro corpo un po' più liberato, soprattutto anche dalle convenzioni, da troppi condizionamenti. Dobbiamo essere un po' più tranquilli. tranquilli, un po' più sicuri con noi stessi. Allora io ringrazio Fausto Manara, psichiatra, docente dell'Università di Brescia. Grazie Fausto. Arrivederci, grazie a te. Grazie a Rossana Beccarelli, medica antropologa. Ciao Rossana, grazie. Buona continuazione. E Elisabetta Fernandez, sociologa e sessuologa, appassionatamente corpo in tutti i sensi. Quindi grazie, e se volete sentire poi la trasmissione sul sito di Radio 24 o sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. E da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.